Giovedì 22 giugno all'interno della rassegna Inchiostro andrà in scena Molto dolore per nulla dell'autrice e attrice Luisa Borini, che ci ha raggiunto qua ai nostri microfoni. Quindi un buongiorno a te Luisa e benvenuta qui su Radio Città Fujiko. Buongiorno, grazie mille dell'invito. All'interno della descrizione di questo spettacolo dici che è la cronaca di una fatica. Che cosa intendi, Luisa? Ce lo puoi raccontare un po'? Beh, è la cronaca di una fatica che si fa per crescere, per smarcarsi dai modelli di riferimento sociali, familiari, rispetto insomma alle relazioni, rispetto anche all'amore, perché comunque è la storia di una ragazza che appunto in nome di quell'amore desiderato, immaginato e dovuto compie degli atti degli atti anche tragicomici, però insomma impavidi slanci, folli voli, fino ad uno in particolare, insomma, che è un po' un volo, poi dopo in tutti i sensi, che segna un punto di svolta e una rinascita, e quindi una continua appunto trasformazione è una grande fatica che si fa insomma nell'accettare anche che come si è partiti poi dopo non si è come si è arrivati. Salirai appunto giovedì sul palco dell'Arena del Sole e sarai da sola su quel palco, quindi sarà un monologo però mischiato anche un po' di stand-up comedy. Sì, esatto, c'è una prima parte, diciamo che la prima parte è un po' una stand-up comedy, anche se può appunto richiamarla, assomigliare insomma alla stand-up comedy o addirittura anche stonare la stand-up comedy, e poi si attraversa la narrazione e diciamo che è un percorso un po' inaspettato, un po' come sono le relazioni stesse, ecco, mi piaceva restituire al racconto totale un'imprevedibilità, così come sono le relazioni e in particolar modo anche le relazioni non sempre sane. Ecco. Volevo chiederti da dove viene l'ispirazione, no, per questo spettacolo, anche se forse un pochino mi hai già risposto tra le righe, insomma, di queste altre domande che ti avevo fatto. L'ispirazione di questo lavoro nasce chiaramente da un dato autobiografico, da una ferita autobiografica che però appunto avendo fatto parecchie interviste in questi anni a persone, parecchi insomma ascolti di amiche, di amici, di conoscenti, così ho ritrovato diciamo nelle stesse, cioè, ho ritrovato dei dati molto simili e molto ricorrenti nelle stesse ferite, ecco, cioè quindi la mia ferita poteva parlare anche per altre e anche ad altre ferite, quindi ho capito che da un dato personale poteva essere un dato chiaramente universale, perché poi un po' diciamo il tema di questo monologo affronta il mega tema della dipendenza affettiva. Proprio nel 2013 è stata inserita nel DSM-5, che sarebbe il manuale per eccellenza degli psichiatri, ed è stata intesa appunto come una inserita come una new addiction, quindi come una nuova dipendenza del secolo, insieme alla dipendenza da sport, da shopping compulsivo, chiaramente da droga, da alcol, eccetera. Però insomma, ecco, mi sembrava chiaramente è partita da un'esigenza personale, che ha capito che appunto io non ero sola e che c'erano tante altre persone a cui potevo parlare e di cui potevo parlare. Era un argomento insomma di cui mi sono voluta insomma in qualche maniera far carico, perché credo che un po' il teatro serva anche a questo, ecco. Assolutamente, anzi forse dovremmo ricordarcelo un po' più spesso che serve appunto anche a questo, come stai giustamente dicendo tu. Bene, grazie mille Luisa per averci raccontato qualcosa di più del tuo spettacolo Molto dolore per nulla, che sarà in scena questo giovedì all'Arena del Sole, quindi invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ecco, ad essere lì presenti. Grazie ancora. Alle 21:30, perfetto. Grazie ancora. Ti ringrazio, grazie a voi, buona giornata.